Letture di Radio 24. È vero che i Rom sono in Italia in quanto cittadini di un paese dell'Unione Europea, scrive Angelo Panebianco commentando l'appello del Papa sul tema dell'immigrazione. Ma è anche vero che tra di loro si annida un alto numero di persone che vivono di furti e altre illegalità. È un noto effetto distorcente dei meccanismi della rappresentanza. Il fatto che spesso i vertici di organizzazioni e istituzioni siano più condizionati e influenzati dall'attivismo delle minoranze militanti e organizzate che dagli orientamenti prevalenti delle maggioranze disorganizzate. Qualcosa del genere sembra capitare sui temi dell'immigrazione anche alla Chiesa Cattolica. Se il Papa non può non invocare il principio della fraternità fra gli uomini e il dovere di accoglienza nei confronti delle diversità, i problemi sorgono quando gli uomini di Chiesa intervengono nel merito e nei dettagli delle politiche dei singoli governi in materia di immigrazione. A rendere i messaggi degli esponenti della Chiesa che più assiduamente si occupano di questi temi meno efficaci di quanto potrebbero essere, sono sempre stati tre aspetti. In primo luogo, il mancato riconoscimento del fatto che se la Chiesa, nelle sue opere di assistenza e solidarietà, non può certo fare distinzione fra immigrati regolari e immigrati clandestini, gli Stati hanno compiti diversi e quella distinzione è per essi imprescindibile. Non può non essere un cardine delle politiche statali sull'immigrazione. In secondo luogo, il fatto che quegli altri prelati parlino molto dei diritti degli immigrati e poco dei loro doveri. In terzo luogo, il loro apparente disinteresse per i problemi della sicurezza legati all'immigrazione. Dal momento che nei vari paesi europei, Italia inclusa, risultano esserci maggioranze nette a favore di politiche rigorose in tema di immigrazione clandestina e di impegno sulle questioni della sicurezza, appare evidente che queste preoccupazioni sono condivise anche da molti cattolici praticanti. Ma di ciò sembrano esserci, in genere, poche tracce nelle periodiche prese di posizione di quegli autorevoli esponenti vaticani. Nel caso specifico dei Rom, quelli provenienti dall'est, ovviamente non i rom italiani o francesi, ci sono di certo alcune complicazioni in più. A rigore non sono tutti clandestini. Sono in Italia, in Francia e altrove, per lo più in quanto cittadini di paesi membri dell'Unione Europea. E inoltre è vero, prima ancora delle regole europee lo proibisce la decenza e la civiltà, che non possono essere impostate da parte di uno Stato democratico politiche mirate contro un qualsivoglia gruppo etnico in quanto tale. Ma è anche vero, d'altra parte, che fra i Rom non italiani si annida un numero assai alto di persone che, essendo prive di un lavoro regolare, vivono di furti e altre illegalità, e gli Stati sono tenuti a tutelare contro le loro azioni i propri cittadini. Con ciò, il discorso si sposta dai problemi legati ai contesti nazionali a quelli del contesto europeo e, più precisamente, ai fallimenti dell'Europa. Si contano i contraccolpi di un allargamento europeo che ha portato con sé diversi effetti perversi e non previsti. Ad esempio, la Romania ha trovato nell'ingresso nell'Unione un modo insperato per alleviare lo storico conflitto fra la maggioranza rumena e i Rom. Lo ha fatto agevolando l'emigrazione Rom verso altri paesi. Ha tamponato le proprie tensioni interne, contribuendo ad aggravare quelle degli altri. C'è poi, in secondo luogo, il fatto che non solo non esiste ancora una vera politica europea che regoli l'immigrazione extracomunitaria, ma non c'è neppure una gestione condivisa dei rapporti con certe speciali minoranze europee, come i Rom appunto, la cui convivenza con le maggioranze è da sempre problematica. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dall'editoriale di Angelo Panebianco, I principi e la realtà, dal Corriere della Sera del 23 agosto.